Io stasera lo sai, ricomincio da te, e tu forse lo fai senza un vero perché. Io stasera lo so, mi rimetto nei guai, tu sai dire di no, ma perché non lo fai? Patti chiari fra noi, dividiamo a metà, perché dopo lo sai, c'è chi prende e chi dà. Non ci credo alle grandi promesse, ti chiedo onestà. Io ti chiedo soltanto onestà, e non voglio saper dove vai. Cosa pensi gli amici che hai? Quel che è stato, quel che sarà. Io ti chiedo soltanto onestà. Questa voglia di noi, io di te, tu di me, può finire, lo sai, nello stesso caffè dove lei mi lasciò, con la stessa bugia. Ci vediamo però, ora devo andar via. E stasera lo sai, ricomincio da te, mi rimetto nei guai di chi ama e non sa che nei giorni che stiamo vivendo c'è poca onestà. E per questo pretendo onestà, perché io sono fatto così. Io non so dire no con un sì, e per questo se amore sarà, non ti chiedo che un po' di onestà, onestà. Perché io ti darò tutto il meglio di me, perché io morirò dal bisogno di te. Mi conosco oramai, io do sempre di più, gli altri prendono il via. Non lo fare anche tu, no, non fare per me, per ridarmi allegria. Se l'amore non c'è, non ci vuole pietà. E per questo stasera ti chiedo soltanto onestà.